2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica dopo le notizie di GR24 delle 13. Ci trovate su Facebook e su Twitter. Uno dei dibattiti più interessanti, curiosi, divertenti ma anche preoccupanti riguarda la possibilità delle grandi aziende della rete di ascoltare gli utenti tramite il microfono del telefono. Allora, tecnicamente possibile ma difficilmente dimostrabile che tutto ciò avvenga. Allora, l'ultima ad essere stata coinvolta è Facebook, che ha negato categoricamente di usare il microfono del telefono per raccogliere dati degli utenti o dagli utenti. Allora, i complottisti, chiamiamoli così, che ipotizzano questa attività dicono: allora, se tu parli di automobili non necessariamente al telefono ma in prossimità del telefono, queste aziende, nel caso specifico l'accusa era nei confronti di Facebook, utilizza il microfono dello smartphone per ascoltarti, e se appunto parli di automobili ad esempio, ecco che ti appare la pubblicità di automobili magari qualche minuto dopo o qualche giorno dopo e così via. È pur vero che, vista la grande quantità di pubblicità alla quale siamo sottoposti ogni giorno, questi casi possono essere pura coincidenza. È però vero che il tema sarà sempre più di attualità nei prossimi mesi e nei prossimi anni, mano a mano che si diffonderanno gli assistenti per la casa, che sono pronti a rispondere alle tue domande proprio perché sono sempre in ascolto. Ovviamente le aziende che producono questi assistenti dicono: sono in ascolto in attesa della parola chiave che li sblocca, e da quel momento ascoltano effettivamente quello che tu stai dicendo. Nessuno di questi assistenti è attualmente in vendita in Italia, stiamo parlando forse del più famoso Echo di Amazon, ma poi anche altre aziende sono andate su questa scia e vedremo nei prossimi mesi arrivare questi prodotti anche nel nostro paese. Adesso alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News. Digital News. Bene, iniziamo dagli smartphone, perché questa è la settimana di esordio sul mercato anche in Italia dell'iPhone X, che per alcuni sarà iPhone X, ma in realtà è iPhone X, anche perché è il telefono del decennale. Alcuni esperti che conoscono la catena produttiva di Apple, la supply chain di Apple, confermano che il nuovo sistema di riconoscimento facciale, che, tra parentesi, per i primi che lo hanno provato funziona molto bene, però questo sistema è così sofisticato da costruire che la produzione non riesce a soddisfare le richieste. Allora, chi prenota oggi dovrà attendere almeno un mese per iPhone X, ricordiamo, per uno smartphone che in Italia ha prezzi a partire da 1189 euro per il modello base da 64 giga. A proposito di smartphone, i prossimi top di gamma in arrivo sul mercato in Italia saranno fra un paio di settimane i Mate 10, i due modelli Mate 10 di Huawei, e il Pixel 2 XL di Google, sul quale farà il suo esordio la versione italiana di Google Assistant, che sarà poi disponibile su altri telefoni con Android 6. Una notizia molto importante che riguarda il mercato delle automobili dei prossimi anni, non direi del futuro, perché già oggi potremmo dire che l'automobile è connessa, ma sicuramente l'auto connessa sarà uno dei business dei prossimi anni, ma prossimi veramente molto vicini. Allora, la tedesca Continental si è comprata Argus Cyber Security, che è una società israeliana specializzata in sicurezza digitale per le auto connesse. I media israeliani parlano di una cifra di 400 milioni di dollari per una startup nata appena 4 anni fa e che ha già ricevuto finanziamenti per 30 milioni di dollari. Sicuramente un affare per gli investitori, ma anche per Continental, che investe in un segmento fondamentale per le auto dei prossimi anni. Ricordiamo che Continental è forse nota ai più per la produzione di pneumatici, ma è un importante fornitore, produttore di tecnologia per il settore dell'automobile. Infine, una notizia che riguarda il mondo delle startup, dei venture capital. ING ha lanciato ENG Ventures, che è un fondo di venture capital, ha una dotazione da 300 milioni di euro per investire in fintech, aziende che usano la tecnologia per cambiare il mondo della finanza. Fintech, finanza, tecnologia, finance, technology. Sul fintech si sono concentrate le attenzioni anche di Digital Magics, che ha creato un acceleratore per il settore fintech, e c'è molta attenzione da parte di tutto il mondo della finanza. Questa settimana è stato reso disponibile il testo del disegno di legge di bilancio, la cosiddetta finanziaria, che rende ufficiale il passaggio ad una nuova tecnologia trasmissiva per il digitale terrestre televisivo. Ne abbiamo parlato altre volte 2024 con Gianfranco Giardina e abbiamo chiarito quello che succederà, però adesso è tutto scritto nero su bianco. Poi vedremo se questo articolo, nel quale è presente questo passaggio alla nuova tecnologia per il digitale terrestre, se verrà modificato oppure rimarrà così. Comunque, dal 1 gennaio del 2020 al 30 giugno 2022 si spegneranno gli attuali segnali DVB-T1, quindi l'attuale digitale terrestre, e si accenderanno i nuovi segnali, le nuove trasmissioni sul DVB-T2 con un sistema di codifica che tecnicamente si chiama HEVC più efficiente. Allora, il risultato è che ci saranno gli stessi canali televisivi, ma occuperanno meno spazio perché una parte dello spettro televisivo dovrà essere ceduto alla telefonia mobile 5G, dalla quale tra l'altro lo Stato, con un'asta apposita, punta a raccogliere molti soldi. Parliamo di oltre 2 miliardi e mezzo. Vedremo poi questa asta che tipo di risultati otterrà. Per noi cittadini, quello che dobbiamo sapere è che molti televisori non saranno adeguati a questa nuova tecnologia e molti cittadini dovranno decidere se cambiare TV, acquistare un decoder per adeguare il vecchio televisore, oppure decidere che chi se ne frega del digitale terrestre, cosa che tra l'altro è consigliabilissima e molti stanno facendo, e guardare altri contenuti o dal satellite o in streaming via internet. Altro argomento riguarda i modem che utilizziamo per collegarci ad internet, alla rete internet. Però pochi giorni fa AIRES, che è l'associazione che raggruppa i grandi rivenditori di elettronica di consumo, quando entriamo in una grande superficie, in un grande negozio di elettronica di consumo, molto probabilmente entriamo in un negozio che aderisce ad AIRES. Però questa associazione si è rivolta all'autorità per le comunicazioni, all'AGCOM, per sollecitare gli uffici ad intervenire sulla pratica dei gestori di connettività internet fissa, quindi parliamo di ADSL e di fibra ottica o di pseudo fibra ottica, molto spesso, una pratica di imporre il proprio modem. È una esperienza, lo vedete in molte offerte, che costa X più tot per il modem. Anche Ivan Catalano, che è un deputato dei Civici Innovatori, ci aveva provato in Parlamento, ma finora senza successo. Ha provato a rendere libero il modem. Infatti, che cosa dice AIRES? Le norme europee consentirebbero agli utenti di scegliere il modem che preferiscono sul mercato, pagarlo anche quanto vogliono in base a quello che scelgono, ma i gestori giocano sull'ambiguità del quadro normativo e considerano il modem il punto terminale della rete. Allora, c'è effettivamente una corrente di pensiero che dice: è importante per il corretto funzionamento della rete internet che il modem sia il punto terminale, deve essere gestito dall'operatore di telecomunicazioni. Benissimo, se fosse così, gli operatori dovrebbero accollarsi la spesa di questo apparecchio e non farla pagare a noi utenti, e alcuni dicono, e io sono anche abbastanza d'accordo, dovrebbero addirittura pagare la corrente elettrica che il modem consuma. Se tu, operatore, vuoi considerare questo come apparato di rete, un po' come le antenne che ci sono per la telefonia mobile, la corrente se la pagano gli operatori, mica la devo pagare io. Chi è d'accordo con AIRES dice invece che, oltre ad essere una limitazione della libertà dei consumatori, cioè non poter scegliere il modem, è anche un freno a cambiare gestore, beh, questo sicuramente, I modem imposti dagli operatori sono un potenziale problema di sicurezza, perché se un hacker ne buca uno, cioè ne buca in realtà decine di migliaia, e poi anche di privacy. Questo non so se possa essere effettivamente così, perché dicono quelli che sono d'accordo con Aires, e Aires stessa dice: il gestore potrebbe controllare quali apparecchi di casa sono connessi, che tipo di traffico facciamo, eccetera eccetera. Ad Agicom la risposta, vedremo se risponderanno, se prenderanno provvedimenti. Comunque un tema molto interessante, molto importante, sia perché, visto che internet si diffonde sempre di più, è una piccola spesa che si aggiunge ai canoni. Fortunatamente in molti casi è trasparente, perché c'è proprio scritto costa tot il noleggio di questo, il noleggio oppure il pagamento a rate di questa, ma visto che è obbligatorio, effettivamente queste osservazioni sono più che legittime, più che condivisibili. Adesso parliamo di commercio, partendo da una considerazione che riguarda il commercio elettronico, ma poi parleremo del commercio tradizionale. Allora, l'e-commerce continua a crescere a doppia cifra, anno dopo anno, ne abbiamo parlato recentemente anche 2024, la penetrazione dell'e-commerce sul totale del commercio al dettaglio in Italia è di appena il 5,7%, nonostante cresca. Quindi oltre il 94% delle merci sono ancora vendute nei negozi fisici. Allora, la domanda che molti si fanno è possibile usare la tecnologia per aiutare i negozi fisici, dove avviene ancora la maggior parte del commercio, per fornire al punto vendita fisico molti dei dati che spingono invece il business online? O, detto in un altro modo, è possibile usare lo smartphone per portare i clienti in negozio? Saluto Nereo Sciutto, che è il presidente di Web Ranking, un grande esperto di questi temi. Nereo, bentornato a 2024. Grazie Enrico. Questo 5,7% tu come lo commenti? È poco o dobbiamo ritenerci soddisfatti? Allora, è poco, perché i dati degli altri paesi europei sono decisamente più alti. Il tema è proprio che cresciamo tanto. Gli statistici sostengono che crescite percentuali in doppia cifra sono legate al fatto che la base di partenza è molto bassa, quindi abbiamo ancora molta strada da fare. Sappiamo ad esempio che paesi come il Regno Unito, che io uso sempre come specchio della situazione italiana perché la popolazione è più o meno simile, per quanto il digitale nel Regno Unito sia a livello worldwide probabilmente il più sviluppato, la metrica che viene usata per capirlo è quanta pubblicità digitale abbiamo pro capite quando nasciamo in UK. In Italia di solito è quanta tassazione ereditiamo, esatto. Sì, quanto debito pubblico. Quanto debito pubblico abbiamo pro capite. E nel Regno Unito la quantità di denaro che viene investita su ognuno di noi usando il digitale rispetto alla televisione e agli altri mezzi è la più alta del mondo. Quindi, usando il Regno Unito come specchietto, si può vedere come un paese simile al nostro abbia delle metriche di penetrazione sia dell'e-commerce che comunque in generale del digitale molto, molto più avanti. Certo, e comunque una cosa che va detta è che da questo punto di vista non siamo diversi dagli altri paesi, perché laddove c'è offerta, guardate ad esempio l'offerta di banda larga, poi i clienti, i consumatori recepiscono e cominciano a consumare. Quindi abbiamo delle prospettive interessanti. Una delle domande che ci si sta facendo oggi è come anche i negozi tradizionali possono beneficiare dello smartphone in modo particolare, ma di internet in generale. Però ti faccio subito una domanda: ma visto che più del 90, circa il 95% del commercio è ancora tradizionale, cioè gente che va, noi che andiamo in negozio, e che problema c'è? Cioè, perché uno che ha un negozio fisico o ha una catena di negozi fisici dovrebbe domandarsi: ma perché dovrei preoccuparmi del digitale come opportunità per crescere? Perché una cosa che forse non tutti sanno è che i negozi fisici, tutti i grandi retailer, quelli che ne possiedono tantissimi, le catene stanno attraversando un periodo non tanto felice a livello planetario. Un mercato come quello statunitense, che è in crescita, il PIL è ottimo, è apparentemente visto da qua è una sorta di Eldorado commerciale, tutti comprano, tutti spendono. In realtà, ad esempio, un grande retailer come Macy's, che viene considerato un punto di riferimento, nell'arco dell'ultimo anno sembra che arriverà a chiudere 70 negozi. Questo perché sta cominciando a diventare molto più difficile giustificare investimenti in quello che gli americani chiamano i brick and mortar, cioè i mattoni e la malta, cioè investimenti fisici, perché questi grossi negozi, o anche in generale i negozi, costano moltissimo, e la sostenibilità di quel genere di modello rispetto a quello che accadeva anni fa è risultata più difficile. Per cui oggi parlare di possibili soluzioni per aiutare i retailer è in risposta a un grido d'aiuto che i retailer stanno mandando su come possiamo fare a portare più persone nei negozi. In realtà sono calati un po' i consumi, e ogni punto percentuale che vedono sfuggire dal mondo fisico a internet, dal loro punto di vista è una preoccupazione. Non hanno ancora capito che la rete è un grosso driver, e quindi stanno chiedendo aiuto a tutti, e noi probabilmente abbiamo una soluzione per loro. Quindi tu dici, tu e tutti quelli che parlano di questi temi, molti di quelli che parlano di questi temi, voi dite non c'è solo l'e-commerce, ma internet e lo smartphone, poi arriviamo sullo smartphone e capiamo perché, in modo particolare lo smartphone, sono un'opportunità anche per il vecchio mondo del negozio. Pensare che il digital, infatti il punto focale è questo, pensare che il digital serva solo all'e-commerce è estremamente riduttivo, ma è quello che per anni chi faceva e-commerce ha pensato. Quindi l'investimento digitale serviva al digitale, il che è estremamente stupido rispetto alle esperienze quotidiane che abbiamo noi. Il digitale è fortemente connesso con la nostra vita, perché noi siamo esseri analogici, cioè viviamo nel mondo vero. Sì, sì, poi molto spesso ci sono varie esigenze, o lo devo comprare subito, oppure lo voglio vedere, lo voglio provare, lo voglio toccare, o anche il piacere magari di andare in passeggiata e poi comprare le cose fisicamente. Insomma, questa è la nostra vita. Che cosa significa poi nel concreto sfruttare internet e lo smartphone per dare un beneficio al negozio fisico? Allora, lo smartphone è un device particolarissimo per n motivi. Qualcuno lo considera il device personale d'eccellenza, un sacco di cose. Sì, io lo definisco il telecomando della nostra vita. Ci siamo, infatti ha senso. Per questo scopo guardiamo un lato di questa specie di dado attraverso il quale si può vedere lo smartphone. È la sua capacità di collegare il mondo digitale alla nostra presenza fisica in un luogo. Quindi è quello che ci dà il digitale in mobilità. Quindi è il punto di unione fra due esperienze nello stesso punto, è quello che ci aiuta a trovare un'indicazione stradale o un ristorante, o capire dov'è effettivamente un punto vendita. All'interno del punto vendita ci aiuta a comparare, che è un'altra delle cose che molte persone fanno, ci aiuta a vedere alternative, ci aiuta addirittura a fare foto che possiamo condividere, quindi porta i nostri amici, la nostra rete sociale dentro un negozio, e un po' delle informazioni del negozio, quelle che giustamente dicevi tu, tocco, provo, che si uniscono alle informazioni più dettagliate che trovo sulla rete, perché internet è un medium informativo, non è primariamente un medium pubblicitario. Rispetto agli altri mezzi di massa, dove compri i secondi, radio, televisione, o nella stampa dove compri gli spazi, su internet puoi approfondire. Quindi a volte l'esperienza di approfondimento prima di un acquisto in store, in negozio, legato a caratteristiche alternative, diventa molto importante per arricchire questa esperienza. Magari quello che i pubblicitari chiamano il upsell e il cross-sell, farti comprare qualcosa di alternativo in più o più grosso, può essere utile, perché magari in negozio il commesso adesso è sempre meno presente, che è uno dei saving, dei risparmi che provano a fare i retailer, è sempre meno presente perché si presuppone che tu sia un po' più informato quando entri in negozio, e questa parte qua dell'informazione la puoi fare anche in real time quando ci sei dentro. Sì, che poi non è sempre vero. Comunque, però scendendo nel concreto, facciamo un esempio, cioè io negozio, poi parliamo anche, perché voi esperti parlate molto spesso di catene, invece io ho la preoccupazione anche dei piccoli negozi. Vero. Quindi come possono venire, però facciamo un esempio pratico di come un negozio fisico può avvantaggiarsi di internet. Allora, il tema è più o meno questo. Possiamo fare delle campagne pubblicitarie. Ci sono dei soggetti online che, oltre ad avere l'e-commerce, hanno un punto vendita fisico. Quando fanno una campagna digitale, destinano una parte del loro budget per le vendite sull'e-commerce e una parte per generare delle visite in negozio. Cioè, la cosa più facile è capire come portare qualcuno dentro il negozio. La fase un po' più difficile è quella di capire quella persona, una volta che è entrata, se ho qualche forma di fidelity, qualche forma di riconoscimento, mi dice chi è. Infatti vedrete molto spesso grandi catene, perché sono quelle che hanno fatto questi investimenti rispetto ai singoli, molti commessi con l'iPad, perché tendenzialmente cercano di interagire con voi e cercano di capire chi siete, perché hanno il loro scopo è capire, a fronte di un investimento che ho fatto per portare tot persone in negozio, quante di queste effettivamente sono entrate e quanto hanno comprato, quindi le devo in qualche maniera identificare. Quindi il tema dello smartphone è il veicolo attraverso il quale comincio a provare, molto spesso per forza di cose in maniera anonima, a misurare quante persone ho portate dentro, per farvi un esempio, dentro un IKEA, a fronte di una campagna pubblicitaria che IKEA registra e svolge online, con obiettivo proprio palese, non tanto di vendere con l'e-commerce di IKEA, che è sempre solo uno, ma con l'obiettivo di portare più persone dentro il negozio. Lo smartphone è quel device che, essendo il mio elemento digitale, è quello che mi rende un po' più riconoscibile rispetto a quello che succedeva negli anni 80. Negli anni 80 io ero una persona, non avevo nessuna connessione digitale, non avevo nessun elemento tecnologico di riconoscimento. Sì. Quindi l'idea è quella di riuscire, grazie allo smartphone, a capire quante persone sono entrate. Se ci fate caso su Google, quando cercate un ristorante, un'attività commerciale, comincia a darvi una stima del traffico di persone che in certi orari è presente all'interno del punto vendita. Sì, sì. Nel caso dei ristoranti non ho più neanche bisogno di scoprire se il giorno di chiusura è il lunedì o il martedì, perché Google, sulla base della stima di persone che vede entrare lì dentro, più o meno capisce qual è il giorno reale di apertura, perché a volte le informazioni che scrivi online sono datate. Hai cambiato giorno di apertura, sul sito c'è scritto sono chiuso al martedì, ma Google registra un picco di traffico alle 9 di sera del martedì in quel ristorante, presuppone il fatto che o fanno feste private o siano aperti al pubblico. Certo. Quindi perché, lo spieghiamo come fa, perché a meno che non abbiate disattivato la geolocalizzazione, Google vi geolocalizza, ma lo fanno anche altre applicazioni. Ci sono anche addirittura Snapchat, per dire. È partito Google, che è stato il primo precursore di questo genere di investimenti, perché aveva i dati delle mappe. E quindi, perché l'altro problema è capire all'interno di pensate a un grande centro commerciale, il piccolo negozio che sta dentro il centro commerciale deve essere considerato diverso rispetto al negoziante di fianco. Quindi il problema di questi grandi player è quello di avere un'informazione molto puntuale di quali sono proprio i muri, la mappa del negozio. Quindi Google è stato il primo a fare un grosso investimento in mappe. Dopodiché Facebook ha seguito questo genere di investimento, tecnologia probabilmente Microsoft, dico probabilmente perché non ne ho le certezze, però ad esempio anche Snapchat, che uno considera fuori dall'universo di questo genere di comportamenti, ha fatto investimenti, ha reso disponibili tecnologie di questo tipo, perché quasi tutti i grandi mezzi digitali si stanno accorgendo che per incrementare il loro ritorno in termini di investimenti pubblicitari devono rendere possibile misurare metriche offline nella vita reale. Infatti il tema è proprio questo: se vogliamo che in Italia la pubblicità digitale cresca, non è spingendo internet su internet, ma è convincendo e trovando strumenti per convincere gli investitori a usare internet per produrre effetti reali. Lo certo. Smartphone, è, come giustamente dicevi tu, è questo elemento che aiuta, grazie al fatto che al GPS aiuta molto meglio a capire dove un utente, pur rimanendo anonimo, è. Però riescono a stimarlo anche collegandosi con le celle del wifi, con i beacon, possono riuscire a sapere che qualcuno è in una certa posizione, potenzialmente anche col GPS spento. Certo, perché ti colleghi a qualcosa che è lì. Esatto, l'idea quindi è questa. Se sei a Milano e non sei a Roma. Esatto, l'idea è proprio questa. Tu a volte rendi disponibile una wifi gratuita, infatti gli americani lo usano come strategia commerciale. Se tu entri in un grande department store americano, la wifi è sempre aperta, sempre disponibile, sempre... Perché senza appena... registrazione, via. Assolutamente. È facile che Macy's riesca a sapere che tipo di siti vengono visitati quando sei dentro Macy's. E da lì fare delle analisi e capire cosa fai. Ma se uno vuole, perché poi dal punto di vista commerciale un conto è avere tanti dati anonimi, un conto è sapere che Enrico Pagliarini o Nereo Sciutto sono andati in quel negozio alla tal ora, con nome e cognome. Giustissimo, qua ci si collega anche a una sorta di ginepraio che accadrà l'anno prossimo, che è il cosiddetto GDPR, che è una nuova normativa sulla privacy, che in estremissima sintesi, proprio molto grezza, ma il senso è questo, tenderà a favorire l'utilizzo dei cosiddetti dati di prima parte, cioè i miei, e sfavorirà l'utilizzo e il mercanteggio di dati di terza parte che possono arrivare da altre parti. Ci sono anche altri aspetti, ma questo è quello più importante. Questa legge sta forzando le aziende a dire: collezionate e raccogliete dei dati che i vostri consumatori vi danno volontariamente perché gli date ricompense o vi servono per consegnargli qualcosa o per gestirli. Utilizzate questi dati, raccoglieteli, dategli del valore, che è quello che è successo fino adesso. Le aziende hanno una percezione che questi dati abbiano un valore, ma non si rendono conto di quanto sia. È fondamentale oggi possedere dei dati. Sono privati, non sono condivisi, e oggi come oggi la normativa va nella direzione di lasciarti usare solo quelli. Quindi per trovare Enrico Pagliarini in un negozio, il tipico strumento che dovranno mettere insieme è una registrazione, e il fatto che si riconosca Enrico non come un utente, Enrico cliente dell'e-commerce o Enrico cliente del negozio di Zara di Milano o Enrico cliente del negozio di Zara di Modena, è sempre lo stesso Enrico, ci sono tante, addirittura tanti retail della stessa marca e c'è un sito e-commerce. Bisogna capire che Enrico è sempre lo stesso, Enrico deve essere conscio di dare un'autorizzazione a essere seguito, quando va in cassa e passa una sorta di fidelity deve sapere o bisogna informarlo del fatto che i suoi consumi saranno analizzati, come quando si usano, i più bravi sono i supermercati, l'S Lunga, la Coop, che ti chiedono di passare la tessera perché alla fine... Sì, sì, quindi alla fin fine quello che io ti ho domandato lo si ottiene con tessere di fedeltà. Sì, oppure con un'identificazione di qualche tipo, come dicevo, anche semplicemente con l'iPad in negozio, attraverso il quale tu in qualche maniera ti dichiari. La cosa che devono capire i retailer, cioè i negozianti, è che devono darti una minima ricompensa per questo, perché certo, il dato vale... tu devi avere qualcosa in cambio, sì, altrimenti sì, ti conviene l'anonimato. Sì, sì, ricordo di essere entrato in un negozio a Milano e comprando una mozzarella di bufala mi hanno detto costa tot, il prezzo non era bassissimo, però mi hanno detto subito, però se si registra, se ci dà la email, le facciamo il 25% di sconto. E io ho detto, ti riconosco anche la... modernità di questo strumento. Ci si sente attenzionati, ci si sente oggetto di attenzione, quindi è una cosa positiva e oggi è un bellissimo investimento che le aziende possono fare e i negozianti possono fare. Ecco, però tu abbiamo parlato spesso di catene, con l'esempio che ti ho fatto io di un negozio piccolo, che chance hanno i negozi piccoli di approfittare di queste tecnologie per portare clienti in negozio? Allora, alcuni strumenti, la maggior parte degli strumenti estremamente costosi, tipo i sistemi di misurazione degli effetti di una campagna su smartphone, tracciamento. Ma non sono solo costosi, sono anche complicati. Perché quello che tu hai detto, hai toccato la superficie di un tema molto complesso e ci vogliono degli esperti. Esatto, il tema grosso qui è che la tecnologia a volte paradossalmente è gratuita perché conviene allo stesso Facebook, Google, conviene a tutti che quella tecnologia ci sia. Il problema è usarla, quindi servono... degli esperti che devono configurare dei sistemi, adattarli, quindi c'è un po' di lavoro. Alcuni di questi strumenti immagino saranno resi disponibili soltanto alle catene, semplicemente perché con un unico investimento misurano tantissimi punti vendita. I singoli hanno comunque, anche piccoli negozianti, hanno comunque degli ottimi strumenti di promozione geolocale, hanno il vantaggio che adesso riescono a farsi pubblicità via digitale soltanto a quelli che abitano lì vicino, rispetto a fare una campagna on-off nazionale. Ci sono per tutti, un piccolo negoziante di Catania ha interesse a farsi vedere in quella zona o al massimo a livello turistico a quelli che non abitano lì ma che il loro GPS li identifica come turisti che sono in prossimità. Sì, sì, sì. Oppure che cercano pasticceria Catania. Esatto, il marketing di prossimità è una grossa rivoluzione perché in realtà fa spendere molto meno a questi negozianti, quindi gli rende disponibile una tecnologia estremamente evoluta a costi bassissimi. E molto spesso la sfida di questi grandi network è quella di rendere accessibili questi strumenti in modalità self-service, perché il tema è quello che dicevi tu, ridurre le piccole e micro imprese o riescono a fare da sole queste cose, non potranno comunque accedere a professionisti, per cui la sfida dei Google, dei Facebook, della situazione è quella di rendere disponibili sistemi self-service sempre più facili, se vuoi limitati, ma più facili. Quindi tu dici che hanno una chance, però devono... cominciare a buttarsi nella piscina, cioè cominciare a capire come funzionano queste tecnologie. Sì, devono cominciare. Una volta ho parlato in un convegno dove c'erano alcune persone, se vuoi, di un'età anagrafica superiore ai 60 che detenevano un certo livello di potere. Io loro ho detto, dovete cominciare a credere, non dico dare potere subito, cominciare a credere a quello che vi dicono i più giovani, perché c'è stata una forte rivoluzione, non soltanto a livello di millennials, ma i giovani sanno usare, si divertono anche a gestire questo genere di piattaforme. Bisogna che in azienda qualcuno gli dia un po' di spazio e li creda, perché alla fine purtroppo il discorso è non se ne stanno chiusi in un sottoscala, fanno le loro cose e queste cose portano risultati. A volte quello che devono fare loro tocca dei pezzettini che possono essere il modo con cui lo stesso proprietario di quel punto vendita ha sempre ragionato, nel caso dei grandi gruppi come l'IT, quindi i servizi informativi, come il marketing, come il commerciale, come la stessa proprietà, devono mettersi d'accordo per fare in modo che un dato che arriva da una parte possa essere usato dall'altra e quindi aprire un po' le porte dell'azienda. Quindi bisogna ascoltarli e portarli in azienda intanto, ascoltarli e credere che si possa fare molto di più di quello che si fa adesso, perché i dati che hai detto, giustamente, torniamo al discorso iniziale, sono molto bassi. Certo. Quando parliamo di marketing digitale, di pubblicità digitale, che poi questo è quello di cui abbiamo parlato, quanto si riesce a incrociare tutto ciò con l'e-commerce. Mi spiego meglio. Un piccolo negozio che magari riesce a sfruttare le tecnologie che tu hai descritto per portare persone in negozio, per farsi trovare e dire al consumatore, invece di andare in quel negozio Y, vieni dal mio negozio X, che è, ecco, a 500 metri. Tutto ciò può poi scatenare anche un'offerta di commercio elettronico, cioè nel momento in cui io riesco a portare, grazie allo smartphone, persone nel mio negozio. Secondo te questo può favorire anche la nascita di una mia offerta online? Sì, ho visto numerosi casi in passato di questo tipo. Il più roboante, il più incredibile è quello di Luisa via Roma Firenze, che da un singolo negozio, lavorando molto con clienti internazionali, che erano entrati in negozio, avevano trovato interessante, loro vendono abbigliamento, avevano trovato interessante la scelta delle collezioni e dei pezzi che loro proponevano, tornati a casa, tipo in Giappone, chiedevano di poter tornare in contatto con loro attraverso uno strumento che fosse commercio digitale, perché l'unico sistema era quello. Questi sono partiti più di 10 anni fa, questo va detto, con un negozio fisico che tuttora esiste. Adesso a Firenze ne hanno 2, ma sì, alla però fine, è lì. Fatturano 120 milioni online all'anno. Fatturano sì, molto di più di tante grandi marche. È l'abilità del negoziante, e lì non è che questa è una cosa importante: il digitale non salva un cattivo negoziante, come se avete presente l'esperienza di turismo che c'è in Riviera Romagnola, vicino a casa mia, quindi la conosco. Pur non avendo il mare, si sono ingegnati tantissimo per offrire un certo tipo di esperienza. Sì, cioè ce l'hanno il mare, però non è che il mare, sì, della Sardegna. Esatto, infatti il mare è residuale nella loro selling proposition, la loro offerta. Esatto. Il tema è, devi essere bravo, perché la tecnologia non salva uno che non si impegna o che ha il prodotto sbagliato, però la fidelizzazione è quello che i pubblicitari chiamano il lifetime value, cioè tu spendi tantissimo. Ci sono studi proprio che dicono che spendi 5 volte di più a portare un nuovo cliente a comprare da te in negozio rispetto, spendi uno invece per vendergli qualcosa in più una volta che l'hai avuto. Quindi il fatto di farlo registrare, di ottenere dei dati e mandargli qualche comunicazione extra è molto mirata, perché adesso ne arrivano troppe, è comunque molto utile, perché ti conviene fidelizzare il cliente, come fanno tutti i sani commercianti che troviamo nelle strade delle nostre città. Ti fidelizzano, ti trattano bene perché vogliono che tu torni. A volte torni in un posto e vieni trattato bene, ma non esamini più le dinamiche di prezzo. Certo, sì sì, è assolutamente vero. Senti, tutto quello che abbiamo raccontato, quanto sta accadendo? Cioè, ci sono molti esempi di o catene o anche negozi. Adesso l'esempio di Luisa via Roma è eclatante, fantastico, ne abbiamo anche raccontato a 2024, ma è sempre un faro. Un faro, sì sì, un punto di riferimento. E come dire, se lo hanno fatto loro, sono particolarmente bravi, sono stati molto bravi, però è una cosa impossibile da fare. Però tu vedi degli esempi o siamo ancora agli inizi, molto difficile, sono ancora molto pochi ad aver capito? In Italia sono ancora pochi, i dati stessi che poi vengono condivisi dagli osservatori sono anche lì confrontato con altri paesi, il tasso di penetrazione, soprattutto il problema dell'Italia è che abbiamo molte piccole e medie imprese, piccole più che medie, e questo è così anche nel retail, quindi per i negozianti. Molti di loro sono più concentrati sul tenere aperto questo negozio, con tutti i problemi annessi e connessi delle festività, del personale, rispetto a dedicare qualcuno che dovrebbe avere tempo ed energie. Tipicamente o lo fai in famiglia perché hai un giovane figlio o parente che ha studiato queste cose, che quindi è in grado di, fanno molta fatica e c'è moltissimo spazio. Io lo vedo ancora come un'area d'opportunità. E lì la sfida è trovare dei sistemi in affitto rispetto a costruire il tuo e-commerce e avere dei costi fissi molto alti, soluzioni in affitto dove tu sfrutti un servizio professionale, quelli che vengono chiamati gli as a service, per riuscire ad avere un e-commerce già fatto e finito e confezionato, che però non ti devi costruire, ma affitti un e-commerce, che una piattaforma di e-commerce che già c'è, semplicemente devi caricare prodotto e raccontarti molto bene. Un'altra cosa che gli italiani a voce sanno fare benissimo, ma sul digital fanno fatica a fare, è raccontarsi. Perché alla fine tu, se hai un'esperienza in negozio di un certo tipo, vendi salumi, vendi aceto balsamico, tema che... E devi riuscire su internet a essere molto più bravo a raccontare un'esperienza che le persone potranno fare se verranno in negozio da te o se compreranno via e-commerce qualcosa che tu hai curato in una certa maniera. Dobbiamo diventare dei migliori raccontatori, e a volte siamo così concentrati a caricare il prodotto che non siamo neanche bravi a fare bene le foto, che, è il primo, che è il primo elemento per raccontare una storia. Quindi diciamo che è un altro di quei casi in cui abbiamo spazio e abbiamo visto che qualcuno prima di noi questo spazio l'ha ottenuto, quindi è possibile. Sì, sì, un bel sito che risponda allo smartphone, che non rimanga desktop anche quando mi collego dallo smartphone, con delle belle foto, magari un bel video, uno, non è che ce ne vogliono 10, ma che sia fatto bene, bello, che sì, presenti. Ma si può fare anche con lo stesso smartphone. Ah, sì, sì. Caso importante, il numero di ricerche da smartphone e il traffico da smartphone sono, se prendiamo il mondo, hanno superato quelle da desktop, quindi qualcuno già stima che entro poco... fruiremo molto di più i contenuti via smartphone. Oggi il sito non è più da fare per lo smartphone, anche è da fare solo per lo smartphone, eventualmente se ti rimangono risorse lo fai per il desktop. C'è stata un'inversione, questo perché il tipo di, poi dovrebbe essere diverso, perché il tipo di ricerche che fai con lo smartphone tendono a essere in mobilità, quindi hai esigenze diverse, a volte cambi proprio l'organizzazione dei contenuti, perché per smartphone tu presupponi che sia stato fatto in mobilità e quindi presupponi di dover dare più visibilità a cose tipo dove sta il negozio, e che sono cose che a livello di desktop puoi mettere con una gerarchia visiva un po' più in basso. Quindi oltre a trasformarlo devi anche adattarlo a livello di concetto, e questo è parte dello storytelling, devi anche trovare delle immagini di forma diversa, perché lo smartphone fruisci in maniera opposta rispetto, rispetto al monitor. Sì. È vero, è vero. Senti, un'ultima domanda riguarda, tu sei nato e del resto la tua azienda si chiama Web Ranking, facendo quella che i tecnici chiamano SEO all'italiana, Search Engine Optimization, cioè ottimizzazione per i motori di ricerca, che nel nostro paese fondamentalmente è Google, ma se uno esporta dovrebbe essere attento, di questo abbiamo parlato altre volte. A Yandex in Russia, ad altri siti in giro per il mondo, come si chiama quello coreano che mi stupì? Naver. Sud Corea, perché Sud Corea, Nord cioè, Corea, cioè, penso no, che esiste. Internet sia spento. Sì, ecco, dicevo, ancora oggi, visto che tu hai scritto assieme ad altri quattro, non so se tu hai colleghi o comunque colleghi, un libro che si chiama L'arte della SEO. Quindi è ancora un tema attuale, perché tu a volte dici anche nei convegni dove tu vai che ormai dobbiamo fare un passo in avanti, cioè non dobbiamo più parlare di search engine optimization, cioè la cosa è un po' più complessa, un po' più vasta. Sì, io davo il tema della SEO come sdoganato, nel senso che è il primo strumento pubblicitario che è nato, pubblicitario parliamo, il primo sistema di promozione che è nato, tutta la pubblicità a cui siamo abituati oggi è nata anni e anni dopo. Diciamo che la SEO nasce più o meno con Google, compirà 20 anni l'anno prossimo. Ha senso parlarne oggi perché da una parte, se ci colleghiamo ai temi che abbiamo trattato di retail, il motore di ricerca è ancora il primo canale a basso costo attraverso il quale, o addirittura nel caso del posizionamento organico, quello non a pagamento, è il primo strumento di accesso a informazioni legate a che cosa vendo, dove lo vendo e quali sono i miei elementi differenzianti. Quindi è una cosa che tutti dovrebbero più o meno avere. Ha impatti sulla reputazione, perché è un mezzo democratico. I risultati organici del motore sono ancora gli unici, se ci pensate, nei quali i risultati, le cose che trovo non sono per forza di cose sponsorizzate da qualcuno o sono nell'interesse commerciale di qualcuno. Tutti gli altri mezzi, compresa la pubblicità a pagamento sui motori, compreso oramai il news feed di Google, di Facebook, compreso tutto il resto, c'è sempre qualcuno che in qualche maniera deve pagare per ottenere visibilità. La SEO e in generale il canale organico dà visibilità alle opinioni, per farvi un esempio, una tesi universitaria di qualcuno che sta parlando di Radio 24, che è un classico contenuto su cui nessuno vorrebbe investire qualcosa, ma che Google rende disponibile e accessibile, perché sono contenuti che in qualche maniera sono rilevanti. Quindi perché è su quello che basi il proprio business. Sì. Perché nel momento in cui non facesse più bene quello, fine dei giochi. Fine anche della parte sponsorizzata a pagamento, certo, siamo esatto, d'accordo. Sì. Quindi la metafora che uso è che potremmo chiudere Facebook domani e non riusciremo più a fare gli stalker dei nostri compagni di scuola di quando eravamo giovani e comunque sopravviveremmo. Potremmo anche chiudere la pubblicità a pagamento su Google e sopravviveremmo. Se Google chiudesse domani la parte organica, chiudesse il motore di ricerca, internet è come se si rompesse. Perché il motore è fondamentale per usare internet, perché ci sono troppi contenuti e senza il motore non sapremo dove andare. Quindi mentre i social sono una bella cosa superflua che ci dà grande soddisfazione, ma è anche un oggetto di business interessante, però non è necessaria la sopravvivenza di internet. La mia posizione è che, se ci pensate, se uccidete il motore di ricerca, un domani internet non è più quella di prima, anzi proprio si rompe, perché io ho un sacco di cose, un sacco di opinioni, un sacco di contenuti, un sacco di anche informazioni. Tenete in considerazione che un motore di ricerca è anche quello che usate nelle mappe per cercare l'indirizzo di Radio 24 e venire a trovare Enrico. Quindi la ricerca è un concetto che va ben al di là di quello che fate sulla casellina di Google. È ricerca su Amazon, è ricerca da un sacco di parti. Sì. Uccidendo la ricerca si rompe internet. Sì. Molto bene, tu hai citato Amazon. Allora, una delle prossime volte, quando torni, parliamo di Amazon. Molto perché volentieri. Amazon potremmo dire che non è, o non è più, o non sarà più un e-commerce. Siamo d'accordo, infatti c'è molto molto molto da dire su Amazon. Molto bene, grazie a Nereo Sciuto per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie. Bentornati, riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini. Ci trovate su Facebook, su Twitter, potete anche scrivere una email a 2024@radio24.it. Come sempre vi consiglio di riascoltare la nostra puntata anche in versione super podcast, il nostro podcast con tutte le interviste in versione integrale. Adesso con noi Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale D-Day.it, per parlare di radio digitale a bordo delle automobili, e ne scopriremo delle belle. Gianfranco, bentornato a 2024, ciao. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Avete fatto una bella analisi delle radio DAB, digital radio, sulle automobili. Allora, ricordiamo che l'automobile è il luogo principale, in base anche ai dati, ma in base anche alla nostra esperienza, dove si ascolta la radio. Questo capita non solo in Italia, ma un po' in tutto il mondo. E quindi uno, così come dico spesso, dovrebbe nella nuova automobile prendere la radio digitale, visto che oggi copriamo, almeno per quanto ci riguarda, nel consorzio di cui facciamo parte, DAB Italia, si chiama così questo consorzio dove ci sono altre emittenti, copriamo buona parte dell'Italia, e devo dire che, visto che parliamo di automobili, buona parte delle principali strade e autostrade italiane. È un piacere andare in giro con l'automobile e ascoltare la radio digitale. Però non è così semplice nel 2017, dopo tanti anni che lo standard esiste, dopo tanti anni, quasi decenni che lo standard esiste, che le trasmissioni sono nell'etere, non è così semplice avere un'automobile con la radio digitale, o quantomeno averla di serie, quello che possiamo considerare sia un oggetto che a mio avviso dovrebbe essere ormai totalmente di serie, come qualunque, cioè adesso sarebbe impensabile avere un'automobile normale, no? Senza aria condizionata, ma certo, c'hanno tutti, sì. Senza alzacristalli elettrici, ecco, benissimo. A parte i modelli super super super economici che hanno ancora l'alzacristallo manuale o solo la ventola e niente climatizzatore, ecco, tutti gli altri dovrebbero avere la radio digitale di serie. E invece la nostra inchiesta, abbiamo semplicemente peritati di andare a vedere tutti i marchi che sono in commercio, abbiamo preso i listini, e invece così non è, è di serie in pochissimi casi. Adesso non facciamo tutti i casi di tutti i marchi, è online su D-Day.it, chi è interessato a vedere può andare a vedere i marchi a cui è interessato, però è di serie in pochissimi casi. E questo sembra più un dispetto, devo dire la verità, perché se oggi prendessimo una vecchia auto, quelle senza l'autoradio di predisposizione, oppure un modello entry level che ancora vengono venduti senza un autoradio, e decidessimo di mettere un autoradio di terze parti, Sony, Pioneer, quindi marchi anche conosciuti, potremmo prendere un autoradio con la digital radio a bordo a partire dagli 80 euro in su, quindi con costi molto bassi, tenendo conto tutta che la radio insieme proprio, al digital radio ho l'amplificatore, il display, ho la radio FM, ho probabilmente il lettore di CD, comunque la porta USB, cioè c'è una serie di altre cose. 80-100 euro a partire da, quindi un prezzo non esagerato. Un componente per aggiungere un tuner digital radio e l'antenna, che può essere leggermente magari diversa rispetto all'antenna FM, su un'auto può costare qualche dollaro, e questi qualche dollaro sulla scala della produzione auto, se fosse di serie, sarebbe un non costo, parliamoci chiaro. Quasi zero. Per questo dico che è un dispetto. È un dispetto anche per un altro motivo, perché alcuni marchi che la offrono come optional in Italia, per esempio in Germania, la offrono di serie. Perché? Perché il mercato della digital radio in Germania è un po' più sviluppato che da noi. Non tanto, però evidentemente c'è questa sensibilità. E comunque c'è la sensibilità, c'è l'attenzione, qualcuno la va a chiedere. Un lettore ha commentato il nostro articolo dicendo: ma io lo davo talmente per scontato che ho comprato il modello più accessoriato che c'era, ero tutto contento e poi ci sono rimasto male perché ho scoperto che, malgrado fosse il più accessoriato di quella linea, non aveva la digital radio. Ecco, è veramente scandaloso, un dispetto. Quanto costano? A fronte di quei pochi dollari che costa a farla la componentistica, ammesso che non sia già a bordo il chip e basti che non venga attivato via software, certo. Comunque questo non lo sapremo mai, ma i costi sono molto variabili e comunque sono mediamente intorno ai 200 euro solo per l'opzione digital radio. Pensa, quindi a te. Non poco, il doppio di quello che costa un autoradio digital radio tutte insieme, e arrivano anche a 300-400 euro sui modelli più costosi, con una odiosa abitudine di alcuni marchi, che è quella di avere l'opzione digital radio, che sempre quella è, il cui prezzo cresce al crescere del valore della macchina. Cioè una macchina che costa meno, quell'opzione costa meno, perché se no sarebbe proprio come dire fuori posto. In una macchina più lussuosa quella stessa opzione costa di più. Devo dire che, come ci ha fatto anche notare qualcuno, non è una novità per il mercato auto, questo vale anche per un sacco di option, ma noi ci occupiamo di audio in questo caso e non ci occupiamo di cerchi in lega piuttosto che di altre cose, quindi osserviamo questo e osserviamo come in alcuni casi l'opzione non sia neppure disponibile, oppure per accedere a quell'opzione digital radio bisogna fare un salto di tutto il sistema di infotainment dell'auto, aggiungendo quindi un optional addirittura da 600, 700, 900 euro per fare un salto, certo che porta un miglioramento, un display touch più grande, tutto quello che si vuole, un sacco di migliorie, ma è l'unico modo per avere la digital radio, mentre la digital radio dovrebbe essere di default anche sulle autoradio di prima installazione, quelle tanto per intenderci con un displayino a cristalli liquidi e due manopole, cioè quelle anche più basic. Sono d'accordissimo e io continuo a dire, cari ascoltatori, quando andate ad acquistare un'automobile chiedete che ci sia e fatevela dar gratis, perché appunto stiamo parlando di cifre e anche nei casi in cui a listino il produttore richiede 100, 150, 200 euro. Se uno va a acquistare una macchina da 20.000, da 30.000 o addirittura di più, penso che sia un dovere del concessionario dare la digitale. Allora, diciamo, anzi, poi viceversa, cari concessionari, a volte c'è molta ignoranza, cioè questi non sanno neanche che cos'è, che cosa serve, eccetera. Cioè confondono la radio digitale con la radio tradizionale che magari ha un display e non la vecchia listella che gira avanti, indietro, destra e sinistra. Offrite questo che non dovrebbe essere, ma è un optional, e dite: guarda, c'è questo optional, te lo regalo perché penso che sia una buona cosa. L'hanno detto anche a Radio 24. Ecco. Anche perché il momento della radio digitale è questo, cioè non possiamo aspettare 10 anni, semplicemente perché poi cambieranno i paradigmi, crescerà sempre di più la disponibilità di banda dati in mobilità, e quindi ci saranno altre modalità di fruizione diciamo radiofonica, anche se di radio ci sarà poco, ovviamente via internet, via podcast, cose che già fanno succede oggi. Però non è così semplice. La digital radio ha un vantaggio, che quando io ascolto in digital radio Radio 24 e per caso esco da una zona di copertura, automaticamente l'autoradio passa sulla stessa emittente in FM, e quindi questo per esempio con un flusso dati a oggi non esiste uno standard che permetta di farlo, quindi io ascolto Radio 24 anche via dati, ma se esco da una zona di copertura dati smetto di sentire sì, cercarmi velocemente lo sostituto in FM. Ecco, quindi ci sono dei vantaggi. I vantaggi, la copertura già c'è, i vantaggi sono adesso, non è che uno può dire vabbè la prossima auto che comprerò fra 10 anni allora prenderò la radio digitale, cioè se va presa va presa. Esattamente. Oggi. Bene, grazie a Gianfranco Giardina per essere stato con noi, a presto Gianfranco, ciao. Grazie mille. Come sempre grazie per essere stati con noi, per aver seguito questa puntata di 2024 anche in versione podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Io sono Enrico Pagliarini, torniamo la prossima settimana. Come sempre un ringraziamento a tutti quelli che ci scrivono per raccontare come ascoltate 2024, se mentre fate le pulizie in casa, se riordinate il giardino, oppure fate qualche lavoro nel weekend, o come fanno moltissimi durante la settimana mattina-sera, mentre fate sport. Oddio, dire la verità, non pochi scrivono se è la mattina o la sera, però presumo io che ci siano quelli mattinieri che lo fanno la mattina e quelli alla sera durante il giorno, molti lavorano e quindi mica vanno a correre, però ci sono anche quelli che magari nella pausa pranzo riescono a fare un po' di sport. Bene, è tutto, grazie ancora, a risentirci alla prossima settimana.